Ibenu shalom aleyem, Ibenu shalom aleyem, Ibenu shalom aleyem, Ibenu shalom, shalom, shalom aleyem. Esia la pace con voi, Esia la pace con voi, Esia la pace con voi, Esia la pace.